Ragazzi, bentornati alla cena dei Regina. Programma, altra puntata, il back.it per guardare tutte le puntate, seguirci, cena.back.it per commentare questa puntata assieme a noi e quindi stare in contatto diretto con la cena. Ragazzi, iniziamo sempre dalle notizie dall'Aus, quello che è successo in questa settimana e quello che succederà nel prossimo futuro, nelle loro vite. Questa settimana l'hanno portato le loro vite, grigliamo noi il grande evento per riprendersi dopo tutte le fatiche elettorali e non, grigliamo noi questa grigliata che abbiamo fatto in giardino. Quanto è stata gustosa questa grigliata, ragazzi? Tutto era buonissimo, i cuochi hanno cucinato tutto benissimo. E facciamo un applauso a tutti. Erano tre all'inizio della grigliata, uno è stato servito come secondo, quindi questo è il suo posto. No, scherzo. Non l'avevo più. Sì. Ci ho fatto il ragù. Il povero Ignazio adesso ricorda. No, scherziamo ovviamente, ragazzi, bellissima serata assieme. Assolutamente. Ospiti tra musica, buona cibo, compagnia, spadate. Può chiederti vicio meglio di quelli di Londra di Capodanno, praticamente. La conoscenza intrinseca del binomio alcol e fuoco che ha scatenato delle trivialità all'interno di queste menti, di questi ragazzi. Una serata molto bella. Ho scoperto nuovi piromani e anche nuovi amici, perché voglio dire, non c'è solo perversione all'Aus, anche se è sempre regnante. E poi, tra ragazzi, l'imbucato per eccellenza alle serate all'Aus, abbiamo premiato l'uccellino che nel pomeriggio è caduto da un albero, abbiamo salvato. L'uccellino sta bene? Dov'è? È sul suo albero con sua madre, immagino che abbia ripreso la sua vita da animale sereno, perché poi abbiamo fatto un nido col cotone e l'ho rimesso là dov'era, perché i veterinari vari hanno spiegato che era impossibile dargli da mangiare se non tramite metodi che inutile stare qua a spiegare. Quindi l'uccellino sta bene, ha preso tanti mi piace su Facebook, è piaciuto a molte persone. Questo atto di cosa? Vuoi dire che mettere un uccello su Facebook funziona? No. Voglio dire, no. Stai zitto, Panda. No, ragazzi, invece il calendario di giugno però finisce qua. No, assolutamente. Finisce qua il calendario di giugno. Certo, Hai detto che finisce qua? Sì. Hai detto che finisce qua? Certo. Grigliamolo. Grigliamolo subito. Quest'uomo non supererà questa cena. Il calendario di giugno continua. Concerti, eventi, serate di cinema e quant'altro. Back.it per guardare tutto il calendario, che è veramente vastissimo, e stiamo definendo punto per punto adesso, perché voglio dire, devo andare a contattare gli artisti, devo andare a vedere come vanno le varie situazioni, incastrare tutto tra di loro. È però grande novità anche alle serate di cinema, quanto sarà bello quando io mi metto là, metto play, mi guardo un film assieme a tutti i ragazzi dell'Aus, mangiamo una patatina, un popcorn, via dicendo. Ragazzi, siateci, back.it per guardare tutto il calendario. Adesso proseguiamo con questa puntata della Cena dei Regini, noi torniamo dopo la sigla. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla Cena dei Regini. Ragazzi, bentornati, la cena dei Regini, adesso lo spazio dell'ospite, questa intervistina che abbiamo registrato qualche tempo fa, durante la serata 666, che ci ha visto protagonisti del backstage per andare a rompere le scatole ai gruppi che andavano a suonare. Oggi ospiti con noi, loro vengono da Vibo, band storica del panorama comunque calabrese, si può dire, perché è in attività da tantissimi tempi. Allora gustiamoci questo video con gli Unscriptural. E ragazzi, bentornati alla cena dei Regini, siamo qui con gli Unscriptural che ci parleranno un attimo delle loro attività. Innanzitutto iniziamo con parlare degli Unscriptural, una breve descrizione della vostra musica e come, in brevi parole, il progetto, come è nato e come si è evoluto. È nato nel 91 con con uno dei pochi che siamo rimasti insieme, siamo ormai solo io e lui, e volevamo fare praticamente portare in musica le tematiche horror che amavamo vivere, diciamo. E da lì è nato questo progetto e pian piano però si è evoluto. Il vostro, avete detto, lo definite horror metal, proprio perché la tematica dell'horror è il vostro tema cardine. Diamo un riferimento su internet a chi ci sta seguendo e a chi vuole qualche informazione di più sulla band. Abysmal Grief, questi sono i gruppi di riferimento. Anche se Abysmal Grief sono nati anche dopo di noi, però... ora ci arriviamo. Un riferimento internet per chi vi vuole venire a trovare sul web. Basta cercare Unscriptural su Google, siamo la prima pagina, su Facebook siamo noi. Abbiamo tutto, anche MySpace, siamo molto facili da reperire. Da reperire, chiaramente. Il gruppo nasce nel lontano, si può dire, 91 addirittura, un bel percorso nella scena musicale calabrese. Come avete vissuto in questi anni, comunque da protagonisti o anche da, immagino, fruitori, spettatori, la scena, e come si è evoluta? Beh, noi da protagonisti proprio non direi, perché siamo dal 91 ma praticamente chiusi in sala prove nel privato. Abbiamo fatto diversi mini, diversi EP, diversi singoli. L'ultimo è uscito nel 2011, Oblivion, non so se hai avuto modo di ascoltarlo, poi te lo diamo. Quindi, però, ti lascio solo pensare che stasera suoniamo l'ultimo concerto che abbiamo fatto 20 anni fa, a Pizzo. Quindi è un ritorno alle scene. Praticamente, quindi proprio da protagonisti non direi proprio, da spettatori sicuramente. Beh, da spettatori però come è evoluta la scena calabrese, come l'avete vista crescere, se l'avete vista crescere, perché... Ma sì, alla fine dei conti ci sono nati gruppi, ne sono morti altri, giustamente come in ogni situazione, in ogni ambiente, c'è il nuovo, c'è il vecchio e c'è chi continua a durare comunque, senza mai finire. È anche un po' il ciclo della vita, ragazzi. La domanda che faccio a tutti i miei ospiti alla cena dei Regini è: Ian Scriptural, sindaco per un giorno di una città italiana. Quali sono le misure che attuereste subito per migliorare la qualità della città? Quali sono proprio le cose che fareste per primo in un giorno da sindaco di Scriptural? Io? Vai. Allora, piglierei Firenze innanzitutto, coffee shop, case chiuse, zona rossa, concerti senza SIAE assolutamente, e la polizia, se vuole entrare, deve vestirsi da pagliacci, se no non possono entrare. Bello, pittoreschi, quindi mirati all'arte e anche al divertimento, assolutamente, sì. Quindi ricominciare da lì. Ovviamente. Ragazzi, erano gli Scriptural, andateli a cercare anche sui vari social network, li troverete sicuramente, e adesso una piccola pausa e ritorniamo alla cena dei Regini. Ragazzi, la cena dei regini, angolo delle notizie dalla strada. Perché? Perché capita nella vita di non avere il tempo di andare a vedere quelle notizie, assolutamente stupido, comunque senza un contesto, e noi te le propiniamo fingendo di fare una trasmissione seria, perché questo è anche importante, avere quel minimo lì. Capito cosa ridete? Cioè, ti devo uccidere. Ragazzi, prima notizia serissima è quella che riguarda Wired, la rivista che ha delineato la mappa dell'Italia nel 2024 circa. E questa mappa è allarmante perché non solo la Calabria e la Basilicata sono sotto il livello dell'acqua, ma in più sono descritte, sono sostituite dal cosiddetto abisso del crimine e secche della corruzione. Perché Reggio Calabria ha conquistato anche Wired, ovviamente grande disappunto dei calabresi online, perché comunque questa mappa riguardava, hanno spiegato quelli di Wired, cosa vuol dire l'innovazione nei prossimi anni. E secondo loro la Calabria e la Basilicata, non essendosi riuscita a modernare, rischiano il collasso, diciamo, anche economico, tecnologico. Vabbè, sono veramente poco informati, posso capire solo la Calabria che stiamo colpendo nella forza, ma qualcuno ha informato queste persone che la Basilicata è la quarta regione d'Europa per innovazione? Sì, no, per tutto, anche per i guadagni, quando sono stati scoperti dei pozzi petroliferi. Perché siamo ancora qua? È fantastico. No. Aspetta, guarda, non lo sapevo neanche io questa cosa dei pozzi petroliferi, addirittura. Ma la stanno livellando tutta, però. Ma il problema è, sì, ma pensa quanto ci stiano guadagnando. No, ma non loro. Vabbè, però l'avevo detto nascosto perché avevo dovuto. Ci sono delle ditte della regione stessa, stanno facendo un po' come in Sicilia, che sai che ci sono problemi. No, comunque stanno avendo una minima evoluzione. Andrea ci sta per confessare che in realtà i pozzi petroliferi sono miei. Scoperti cadendo dal letto. Vabbè. Comunque, zio, ma pozzi petroliferi? Strano che l'America non abbia deciso di portarci un po' di democrazia in questo momento. Rischieremo anche quello. Ma ragazzi, a proposito di America, è da là che viene la storia di Tony the Fridge. Tony the Fridge, quest'uomo, neanche giovanissimo perché ha circa una cinquantina d'anni, si fa chiamare Tony il frigorifero. Tony the Fridge, lui è un atleta. Fa questo? È un atleta. Perché sai già cosa fa? Cosa fa? Non lo so. Vedi perché lo dobbiamo imbalsamare e uccidere subito? Ma ci possiamo prima imbalsamare, poi uccidere. Ovviamente. Perché non posso togliermi gli sfizi, ragazzi. Tony the Fridge, quest'uomo, ha deciso di accettare delle sfide, fare delle maratone con un frigorifero in spalla, Tony the Fridge, per lo scopo benefico. Quindi che fai? Tu gli dici, tu organizzi una maratona che farà in un tot di tempo con il frigorifero in spalla. Lui dice, per attirare lo sguardo della gente, ho inventato questa cosa di portare in spalla il frigorifero, e lui raccoglie i fondi utilizzando questa cosa. Pensate, è bellissimo, un evento, come farne a meno, questo cinquantenne che va in giro con un frigorifero in spalla. Così, se mentre corre a sede, apre il frigorifero e... C'era un tizio... Mi è venuto in mente il tizio in Cina che se n'è andato correndo nudo con la croce sulle spalle, non so se... Ah, la foto, c'è in giro. Purtroppo la notizia è vera. Perché? Si è preso col frigorifero, ma... C'era un tizio nel Guinness World Record che si portava in giro i treni con la barba? Con i denti, c'è stata tutta... la cosa, ragazzi, ci sono cose strane che avvengono nelle città mondiali, cose che si portano, si prelevano, eccetera. Capita a volte durante una pioggia molto particolare, anche a Reggio ogni tanto c'è questa pioggia e le strade, diciamo, che si riempiono un poco d'acqua. Un poco d'acqua. C'è questo problema abbastanza risaputo. Zona San Leo, poi sì, c'è quella bellissima. Ferroviaria che va sott'acqua letteralmente. Quando abito da mia nonna, mi affacciavo alla finestra e dicevo, nonna, basta la spazzatura che la butto nell'Adriatico. vedete, ognuno ha il suo rapporto con la pioggia invadente. Ma pensate, essendo gli americani avanti, questo ragazzo, Jake Sawyer, è riuscito durante una pioggia, diciamo, abbondante nella sua città in Ohio a pescare una carpa di 20 kg. Cioè, lui era nella sua strada allagata, ha trovato sta carpa e l'ha raccolta e l'ha presa. 18 kg esattamente. Il ragazzo, che già stava, diciamo, snotazzando in questa via, la presa e la coccolata, diciamo, un pochettino, e poi l'ha riportata nel laghetto vicino dal quale era sfuggita. Ma potremmo fare un altro tipo di pesca alla mantegana. Fantastico, bellissimo. È vero, è vero. Poi lo mangiamo. Quello superiore a 2 kg, perché non è una delle proporzioni. Un chilotto e mezzo si può. Sì, sicuramente. Il mantegano. No, quello che ho visto io quando torno a casa. Se si può raccontare, sera, stavo tornando a un certo punto, vedo vicino il marciapiede sotto dei cassonetti a spazzatura, iniziare a vibrare e dicevo, cavolo, cioè non riuscivo a capire cosa fosse. Mi avvicino, erano una trentina, quarantina di topi. No, io invece uno solo. Io sono sceso dalla macchina perché ho visto questa cosa, convinto, sicuro che fosse un ballo. Invece era un po' per quanto aveva mangiato, non c'era certo a muoversi. Ed era tipo così. Enorme, enorme. Diventavo io pensare. Ragazzi, sono i mali estremi a cui bisogna trovare sempre una soluzione. Capita anche alle forze dell'ordine. Questa è una notizia un po' particolare. Lui era un 28enne. Aveva questo vizietto, diciamo, dei furti, 28enne mi sembra del giapponese, sarà, no. Immagino che loro siano. Comunque, polizia, troveremo poi con calma la connotazione, ma indiano, sarà indiano perché sì. Polizia indiana trova questo ragazzo che era sospettato di aver rubato una collana d'oro. Su un treno, loro lo pescano, lo pizzicano, diciamo così, gli fanno l'ecografia, lo perquisiscono, vedono che all'interno del suo stomaco c'è questa collana, ma non potendo aspettare che la natura faccia il suo corso, gli fanno mangiare 96 banane per lasciare, no, ma poi India. Non è specificata. Tutto sul treno. 96 banane, no, l'hanno portato nella stazione di polizia dove sono stati fatti le perquisizioni, l'ecografia che ha rivelato la presenza della collana, e poi giù con 96 banane mangiate per. Un casco in terra di quelli là. Sì, però forse non hanno preso un po' così. Sarà qualche metodo loro. La polizia indiana mi sa che non ha tanti metodi. Ragazzi, la polizia è moderna, è giovane, e quindi ha fatto questo scherzetto a base di banane a questo povero innocente. Ma soprattutto pensiamo alla donna che adesso indossa questa collana. Caro, guarda cosa ritrova. Penso non sia stata molto felice. Però sapeva di banana. Sì, sicuramente. Sì, perché era quella che ho comprato. Sono dove è uscita. Vabbè ragazzi, sono dettagli, magari la collana è ancora più preziosa adesso che ha avuto questo trascorso così particolare, voglio dire, è fantastico. Ragazzi, Tokyo, la polizia è ancora protagonista, però per una vicenda che è alquanto inquietante. I corvi giapponesi sono costretti ovviamente per loro natura a raccattare di tutto per creare i loro nidi, noi lo sappiamo benissimo con l'esperienza che abbiamo avuto dall'uccellotto alla scorsa grigliata. C'è un solo problema: i corvi hanno questa fissazione perché trovano particolarmente adeguati gli appendiabiti delle case di Tokyo. Ovviamente le case là sono tantissime, quindi loro vanno a creare questa cozzaia di metallo sugli alberi, che col tempo è diventata anche particolarmente pericolosa quando, non regolandosi, vanno a creare la cozzaia sui pali della corrente elettrica, quindi creando anche dei mega blackout perché loro vanno là a intervenire con questi fili di ferro. Quindi pensa alla natura che gli dice di fare questo, però poi ti diverte a prendere in giro gli esseri umani. Rischi il mega blackout perché magari il sono pezzi di ferro, no? Ok. Allora, il corvo che va a posare questo pezzo di ferro durante il blackout, poi se lo mangiano perché. No, non tocca terra. Non tocca. Il pericolo è che tocchino due fili contemporaneamente. Sì. Quello si conduce, però. No, una volta c'è successo che mentre stavamo camminando, una situazione tipo 28 settimane dopo, sapete, camminavo e parlavo con un mio amico che non voleva nada. E c'erano due passerotti su questi due. A un certo punto mentre parlavamo di disgrazie, tra l'altro con Mazzoni, furono questi due passeri e muoiono nello stesso istante, ci cadono a 2 metri di distanza, perché io li avevo visti che ci mancavano, sono crollate morti e entrambe. Fantastico. Quando la natura sa stupirti, ragazzi. Una storia dolcissima dall'America. Esiste lo spray contro i mostri, questa medicina che permette a tanti bambini, soprattutto è stata inventata in una farmacia del Nord Dakota, ha creato questa medicina, questo spray contro i mostri, così etichettato, per permettere ai ragazzini che hanno questo problema, diciamo, di paura notturna, di risolverlo. Naturalmente la medicina è assolutamente fasulla, è un placebo, diciamo, psicologico, però è dolcissimo il fatto che il farmacista ti dà questa medicina dicendo spray contro i mostri, cioè veramente impacchettata. Perché i bambini non ci credevano. E i bambini guariscono, cioè nel senso che è talmente tanto l'impatto psicologico che i ragazzini risolvono il problema, solitamente, dice la notizia, entro i 3 giorni, c'è anche la fase, diciamo, curativa. Cioè, 3 giorni per... Ma come lo fare prima? Io con l'uomo nero non ho dormito per giorni, ho fatto fatica veramente per... C'è l'uomo nero sotto il letto e io controllavo tutte le sotto il letto. Ma questo dov'è? È impossibile che c'è sempre sotto il mio letto. Trovi l'uomo nero come item, diciamo, negativo. Sì, mio nonno mi diceva: se fai la cattiva, l'uomo nero viene sotto il letto. E tu, ma porca miseria, proprio sotto il letto. Te ne sei liberata a quanti anni? Tipo. Ieri. No. L'altro ieri. No, ragazzi, quando... ci sta raccontando la sua storia. 6 anni, 7 anni, avevo 5, quindi sono stato un po'. La verità è che è passato a letto senza brando. Siccome io non avevo il letto, comunque era bimbo da una parte all'altra, era incassato, quindi comunque era sempre buio sotto, capito? Quindi vedevo sempre quindi nero, c'era veramente. Sempre il nero. L'abilità dei nostri vecchi nel creare ansia era insieme. Sì, adesso ha sostituito la paura dell'uomo nero con la paura di me. Ah, ecco, perché adesso sei tu che là, il suo... Ragazzi, bisogna fare una puntata solo per... Cioè, parli... aspetta. Guarda, ne basta una soltanto. Vai. Però te la deve raccontare lei. Cosa ti dice nel sonno? Brevemente. Se stiamo dormendo, cioè lui stava dormendo, io ero ancora sveglia, a un certo punto si gira, noi abbiamo un nomignolo, ci siamo dati negli anni, che si girano bimbi, però una cosa che non ha, tanto una cosa carina, vabbè, quello non lo possiamo dire. Meglio. Allora, a un certo punto mentre dormiva, lui si gira e fa, che bello che sei venuta con noi, e io, viva, come riti, che bello che sei venuta con noi, e io là, cacchio, i miei genitori lo sanno, quindi se lo ammazza ce lo scopriranno, il motivo cioè se non torna a casa. Sto va bene, e comincio ad aprire la luce, perché tutto questo mi ammazza, non mi dico, che bello che sei venuta con me, tua mamma, io che gli dico, a un certo punto si sveglia, tu Luca, e poi mi ha fatto finta, cioè si è avuto un attimo, e mi fa... Ho lasciato la penna nel computer. Dopodiché si è addormentato e io non ho dormito più. Ho dormito con luce accesa, non sei da quando con luce accesa. Fino a che non sono svenuta dal sonno, io lo guardavo in continuazione. Sai, tipo quella paura tua, ma cosa si sveglia, lo sono ammazzato. Sei sonnambulo, vero? No, sì. Sono stato sonnambulo per un certo periodo. Ma insomma. No, però dopo 4 anni non mi ha fatto più. Una volta ha fatto un test, secondo me. Se questa regge, la tengo, se no, ciao. Ci sono paure irreali e paure reali. Luca è una reale, l'uomo nero. Avvisiamo per i bambini, è irreale, tranquilli. Quindi, a posto, storie incredibili, ovviamente. Come, anzi, introduciamo adesso il bollino rosso, questo è l'angolo più piccantello delle notizie dalla strada. Perché viene dal Giappone una strana moda, anzi uno strano servizio che viene, c'è questa azienda che per 500 euro trasforma un uomo in un qualcosa, secondo voi, cioè per 500 euro? No, cosa paghereste? Aspetta, aspetta. 500 euro, cioè vorresti essere un Power Ranger? Potrebbe essere un'azienda che ti trasforma. Vorresti essere pagheresti 500 euro per diventare cosa? In che senso? C'è una trasformazione di make-up, vestiti, cioè proprio un comodino. Un comodino, 500 euro il Mogano, almeno perché mio padre era un albero. 500 euro, cosa paghereste per 500 euro? Vorreste diventare 500 tante, quindi cioè che so, 500 euro, come diceva lui, un Power Ranger, ti fanno il costume da Power Ranger. Immagina che potrebbe essere così. Poi, sì, la sirenetta. Lei pagherebbe 500 euro per diventare una sirenetta. Voi, 500 euro qualcosa? Il sosia del Papa, per le reazioni delle persone. Il sosia del Papa, fantastico. Tutti, e poi gli devi telefonare. Ti danno i numeri di telefono. Naomi Campbell. Naomi Campbell, oh yeah. 500 euro, quindi te lo puoi qualche Kenshiro con poteri annessi. Kenshiro con scritto Kenshiro poteri da vedere per 500 euro. Un astronauta, quindi con tutta la tuta, le cose, eccetera. Ragazzi, non avete azzeccato, qualche idea tu? 500 euro, niente. Bianco, perché non mette qualche attore. Tipo, vuoi diventare, non lo so, Kenny Reeves in Matrix, perfetto, può essere anche. Ragazzi, purtroppo non avete indovinato nessuno di voi quello che fa questa azienda giapponese, che per 500 euro ti dà la possibilità di fare agli uomini di fare un servizio fotografico truccato da principessa. Quindi loro ti rendono principessa per una sera e ti fanno fare un servizio fotografico. E sta avendo un successo clamoroso, ha già 100.000 euro. 500 euro a loro invece che loro magari per fare un servizio fotografico totalmente truccato e vestito da principessa. Io immagino Andrea essere principessa, che carino! È già sulla strada. Velocissimo! Ragazzi, pensate, cioè, l'ospizio è di sentirsi diverso in molte situazioni. Oh, io pensavo dello Kitty. Andata bene, ma c'è la principessa Andrea, il sosia, vi dovete spaventare adesso. Sì, ma ragazzi, andiamo avanti. Ultima notizia, la più particolare, insomma, perché diciamo che farà storia sicuramente. Lui si chiama Chen Kuzun, è un 56enne cinese e negli ultimi 20 anni ha fatto collezione di una cosa molto particolare e anche legata, diciamo, al mondo femminile. Assolutamente. Ovvero i reggiseni. Dei reggiseni lui ne ha collezionati oltre 5.000. Si è fatto questa collezione di privata e le chiede spesso alle ragazze, che per lui hanno un particolare valore estetico, comunque che gli trasmettono un qualcosa, lui chiede un reggiseno in cambio, ovviamente spesso viene preso per un pervertito. Pensa no, tu, ma chissà come mai. Invece lui adesso vorrebbe fare un museo del reggiseno, cioè mettere a disposizione di tutti questo suo parco reggiseni che ha raccolto in giro. E chi non ci andrebbe? Giapponese, cinese. Sì, non netto a Posai che collezionava lingerie. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche questa settimana. C'è la chiocciolabac.it per commentare o magari suggerire le vostre notizie, perché magari avete, non lo so, una passione sfrenata anche voi per qualcosa di un po' perverso che volete condividere con noi, quindi potete mandare una, non lo so, una collezione di forchette di plastica usate e il panda le verrà a prendere a casa vostra. Noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale, a tra poco con la cena dei regini. If what you say is true, then I'll set the table for two. Leave the cleaning for the morning, stay in bed adoring the eyes of which are smiling. To the thought of me, it's me and you. The home in you I find laughs with a bottle of wine. As of now, both eyes are open, looking past a home now broken. From a deep sleep, I've now woken to the thought of me, it's me and you. We'll take the long way home, our sneakers wet to the bone. Casting stones behind us, let them lay where they lay. And make sense of the road these emotions may play. And I'll mess up your hair, and you'll give me shit for the clothes I wear. And as I start to clear the table, you'll argue that you're more than able. So I start writing down some songs as you shoot more rockets at bronze. When the game is paused and your lips are puckered, and I'm reminded of why it's me and you. If what you say is true, then I'll set the table for two. Leave the cleaning for the morning, stay in bed adoring eyes of which are smiling. To the thought of me, it's me and you. Ragazzi, la cena dei regini. E questo è l'angolo caldo. Questa settimana tocchiamo un argomento scottantissimo. Soprattutto dopo la cena. Scottantissimo, soprattutto dopo la cena. Perché sono le 10 frasi da non dire a chi si mette a dieta. Perché la dieta. Lo sapevo. Guarda, già lo sconforto. È la dieta. Dedichiamo questa classifica a Pino, il mio medico, che settimana prossima farà una puntata speciale della cena, leggendo solo le mie analisi del sangue degli ultimi mesi. La dieta, il momento particolare tra noi stessi e il resto del mondo. Che ti rimanda sempre lui. Ci sono delle privazioni, si rimanda, ci sono delle cose da tenere presenti, la vita cambia, ma ci sono 10 frasi che possono veramente fare la differenza. Allora, la numero 10, ragazzi, mi raccomando, concentrazione. Noi diciamo le frasi, poi alla fine, se ne volete aggiungere di altre, posso dire io l'undicesima? alla fine ne potete aggiungere di altre. Allora, alla numero 10, guardare il tizio e dire è questa, indicando la ciccia extra, vuol fare da spaccone, cioè come dire è questa, e ti tocca il lardello sopra la cintura, l'odio, oppure qua l'eccesso di e questo? Mi è capitato? No. E questo? Rispondete così e avete perso un amico. La numero 9 è terribile. Sapessi che fame. Frase che riecheggia nei mesi in cui vivi di acqua e verdure. Sapessi che fame. Dillo tu a me. Sapessi che fame e tu non mangi da mesi perché penso. Vuoi una pizza? No, l'ho già mangiata a pranzo, ma sapessi che fame, panda, sapessi. Le bestemmie che ti perdono, Mac. Si deve, alla numero 8, e qua arriviamo al già una frase storica. Eppure pensa, io sono quello che mangia e non ingrassa. Eccolo, è bello, vedi. Quello deve essere il primo posto, quante volte. Vedi. Sì, superate il trend, superate il trend, si può aggiungere la frase. Le ultime parole famose. Ogni volta ve lo dicono con la faccia che ci vedono. La candida missione, no, che però. Lascia stare, oddio, ci provo. Tu lo provo, io ci provo. Sai quanti panini, quanti dolci che mangio e non ingrassa. Io, guarda, ti capisco, io sto solo 5 volte a settimana in palestra, 2 ore. Cioè, guarda, mi medico. Va bene, questa è una cosa brutta. Quindi questa qua è già una frase orribile. Terribile, che si sente anche spesso, perché bisogna, cioè è il metodo forse migliore per cercare di. Ma andiamo avanti, perché ma il problema non è tanto il fatto che te lo dicano, il problema è che te lo vogliono dimostrare. Certo, quindi. Quindi davanti a te si porta. Tu l'insalatina e loro la pizza. Esatto. palla numero 7, ragazzi, perché siamo nell'era tecnologica. Hai provato quel rimedio che si vede in televisione, o magari il bendaggio gastrico che adesso va tanto di moda, per smontare il tuo tentativo, paragonare le tue rotondità a quelle di una pentola d'acciaio di 10? Cioè, pensa tu. Quindi ti suggerisce quei rimedi televisivi impossibili, cioè dove si vedono cose assurde prima, dopo, gente ma che... Ma si possono, tra l'altro, il bendaggio gastrico si può fare solamente in determinate situazioni, ovviamente. Però, se uno arriva di questi 7 che è sovrappeso soltanto tipo per ringraziare 400 grammi, non è che ti vengono a fare il bendaggio gastrico. No, ovviamente no, ci sono situazioni molto più gravi. Guarda, ci sono anche le pubblicità che non aiutano. Ah, per mille volte, non so se c'è questa, però mille volte, mentre mangio, forse il momento, una delle poche volte in cui mangio veramente, anche alla cena dei regini, vabbè, a questa parte, però quelle poche volte che mi concedo qualcosa in più, mentre mangi, la cellulite è una malattia. La televisione, sì, vabbè, la televisione che ti concede degli strumenti per reagire, ma anche per ammazzarti. E quindi alla numero 6, vedi perché dico spegnete la televisione, vedi? Alla numero 6, candidissima, pungente, ma finta ingenuità di dire: ma sai che fai bene a perdere qualche chiletto? Lo sai che fai bene a perdere qualche, come dire, ah, perché grazie. C'è il proposito, però c'è anche la mazzata. Fai bene a prendere quelle piccole, quelle piccole lance che ti lanciano. Che sono? Giusto, uno sente in colse, vuole dimagrire, finalmente non mai fai bene, guarda. Forse è giusto che ti vedi un po' ingrassata. Anzi, tu vedi che hai preso qualche chiletto in più. Il chiletto, che si chiama chiletto, si addolcisce, eccetera. Portami a Camelot, per tornare del genere. Alla numero 5 c'è invece l'opposto, cioè il, come il razionalista. Non credo nelle diete, secondo me non funzionano. E ti crolla tutto il mito che tu ti hai rifatto, che adesso mangio ciclette, cose, eccetera. Loro con questa frase ti smontano tutto. Il realista ti smonta tutto. Non crede nella dieta e quindi cerca di sfatartela così davanti. Tra. E questo è meno raro, perché ormai viviamo nell'era un attimo della dieta, quindi comunque ci saranno meno realisti in giro per il mondo. Alcuni sono stati uccisi da chi era in dieta, forse anche per questo. Cioè, certo, sai cosa capita nel periodo della dieta, da un po' che faccio dieta? Che ogni volta, ad esempio, anche per così, sai, io dico all'amica, ho visto la dieta, per esempio, di Pierre Dubin, che è stato, c'è stato un periodo in cui si parlava di questa dieta, che era, c'era quattro periodi, insomma, un po' particolare. Perché ci sono anche i guru delle diete. Ci sono anche i guru moltissimi, ultimamente ce ne sono tanti. Sarebbero da fucilare. Io ho letto questa qua di Dubin, in cui c'era il periodo, la fase crociera, la fase di... In cui praticamente si doveva mangiare o solo carne, prima la prima fase, o solo verdure, poi solo carboidrati e poi insomma giustamente, ma tanto per me che l'avrei seguita, però dico no, ma lascia stare perché questo, no, non fare così, non fare quell'altro, quindi comunque, cioè vabbè, alla fine faccio di testa mia, perché comunque andare dal dietologo, a parte che è una spesa, cioè comunque grandissima, secondo me è, se uno vuole, cambiando anche un po' di alimentazione, si può fare un po' di sport e un po' di alimentazione. Poi c'è, cioè, chi ha problemi, secondo me, più grossi, allora là è bene andare da uno specialista, quindi comunque fare cose... Però in generale... Ne ho viste amiche che hanno fatto diete pazzesche, comunque che avevano il macchinario, sì, che probabilmente non ricordo come si chiama, cioè il sondino, quindi col macchinario, che poi giustamente una volta che cacci quello... poi, cioè, poi comunque la fame ti viene ed è una cosa veramente peggio. Oppure solo ti mangi solo biscotti della farmacia e poi, cioè, che costano anche tantissimo, non è che sono biscotti del supermercato, sono biscotti della farmacia che costano tipo 20-25 euro, quindi, e poi hai fame, capito? Quindi ci arriviamo a questo, ci arriviamo subito, perché nelle posizioni più avanti, ma la numero 4 prima. Dopo il realista, cioè quello che fa un attimo il tentatore, come il serpente con la mela, dice: andiamo in quella nuova paninoteca che hanno aperto adesso, che c'è il Super Max Hamburger con 300 kg di salsina? Andiamo. Andiamo. Il tentatore, che è quello che solitamente si vede a tutti i vernissage, cioè a tutte le occasioni mondane, che è la scroccata. L'amico in forma che non mai, che ti invita a questi locali da sperimentare, eccetera. Drammatico. Regine. Sì, esatto. cosa vorreste dire? Io un tentatore, sì, assolutamente. Assolutamente sì, vabbè, lo diciamo da un anno, se era da letto. non succede mai, quindi meglio così. Ragazzi, alla numero 3, l'ottimista, però con l'allarme. Basterà togliere pane, pasta, carboidrati, dolci. Perché ti dà la prospettiva allarmante di vivere pane e acqua per i prossimi mesi. Quindi lui ti dice: tranquillo, funzionerà tranquillo. Basta che togli pane, pasta, tutto. L'acqua, la mezza mela e neanche. Diettente la flebo. Le diete pazzesche, la via della pizza, la via dell'ananas. C'ho delle cose incredibili. Aspetta, perché c'è la dieta del ghiaccio. No, perché alla numero 2 c'è esattamente il suo profilo. Basterà fare un po' di sport. È vero. Io ho risolto tantissimo facendo, cambiando l'alimentazione, lo sport. Io ho perso dalla 46, ho perso arrivato alla 40. Quindi comunque io sono riuscita, però comunque la palestra va fatta. Cioè io l'ho fatta seriamente proprio come un cavallo, devo dire. Cioè, ho fatto 3 ore al lavoro di giorno e 3 ore al giorno. Quanti anni è? Io da ho iniziato a marzo fino a luglio, era da settembre adesso fino a giugno lo finisco. Cioè, 3 ore al giorno tutti i giorni? All'inizio sì, cioè quando l'ho presa per bene, cioè molto per bene di sì, punta, diciamo. Sì, quest'anno invece ho iniziato 3 volte a settimana, poi durante l'anno 4 le sono 5 volte al giorno, perché è l'ultimo mese che mi rimane, quindi 5 volte a settimana, 2 volte al giorno. Cioè il proprietario che diceva otto, no. Ti regalo la sigletta. No, comunque se fatto seriamente io ho avuto i miei risultati, cioè, io la prendo seriamente, la voce, la voce. In suo caso sì, Pedro, perché solitamente chi ti dice così è quello che invece è il pigrissimo che non fa mai sport e ti dice però basta fare un po' di sport, e questo è il punto della situazione. Ti ha funzionato? Ottimo. Manca la numero 1, quella no, più ce l'ho in mente, vediamo se è quella. Quella più agghiacciante, quella che da cui non si esce. La sentenza. Tanto poi li riprendi tutti. La sentenza ti blocca, ti congela, ti blocca. Pensavo a una cosa molto. Ti smonta ogni prospettiva di superare la prova costume, perché tanto poi li riprendi tutti. Quella è la sentenza, è semplice, diretta, come dire, basta. Non è inutile. Anche se c'è la presenza. Poi invece immagina una ancora peggiore, vedi questa bella ragazza, diciamo, abbastanza in carne, e tu pensi invece che sia in dolce attesa. Oh, tanti auguri! Questa è brutta. Questa, aggiorniamo la classifica, questa è veramente... Siamo quasi a quei livelli, no? C'è una mia sorella che è incinta, in misura contro quella che si incinta. Mimetizzato, vabbè ragazzi, sono cose che succedono. Le vostre diete, il bacche.it per seguire tutte le puntate. Ragazzi, questa era la classifica e la fine della Cenere Gini per questa settimana. Contattateci, il calendario di giugno per venirci a trovare e seguire tutte le iniziative su bacche.it. Un saluto dal Bacche e dai ragazzi della Cenere Gini. Ciao. Settimana prossima, ciao!